Grazie Vitek. Volevo aggiungere una cosa che magari vi dà qualche stimolo ulteriore. L'organizzazione sociale che abbiamo noi è relativamente complessa ed è un'organizzazione, secondo ordine, diciamo, che si basa su esperienze biologiche molto ben sviluppate nell'arco di milioni di anni con altri sistemi biologici. L'utilizzo di cui andiamo tanto fieri invece è del livelli di elaborazione razionale superiori, che ci hanno permesso di creare la società tecnologica attuale, sono una conquista di primo ordine, non hanno precedenti biologici sufficientemente stabili. Sono uno strumento evolutivo recentemente conquistato e come tale lo spazio delle sue possibilità non è stato ancora sufficientemente esplorato. In effetti, un po' come prima dell'esplosione cambriana, le forme di vita erano relativamente simili, solo successivamente sono state da parte della biologia esplorate alternative, così analogamente le forme di intelligenza che conosciamo adesso sono rappresentate solamente da noi e facciamo fatica a capire come sarà la natura delle forme successive. Penso però che sia abbastanza universale la percezione che sarà assente un dibattito che io personalmente trovo molto pesante e molto poco esaltante, che è l'apparente dicotomia tra ragione, razionalità da una parte e fede, intuitività dall'altra, che le intelligenze che ci affiancheranno usando, non solo usando come facciamo noi, ma essendo fatti di razionalità, non avranno la scelta se rinunciarvi. E in questo senso prenderanno le decisioni che dovranno prendere anche in una maniera più rilassata, più serena di noi, indipendentemente dalle loro conseguenze. Questo penso che sia particolarmente rilevante, soprattutto nel contesto di questi giorni. Avrete visto qualcuno di voi che ho lanciato un invito a tutti gli italiani che volessero trovare rifugio su Vulcano e contro quello che è l'apparente irrazionalità della nostra classe gerontocratica dei politici, da una parte e dall'altra, che sono, a mio avviso, pronti a sacrificare quella che l'Italia può dare per mantenere le proprie posizioni. E mettere su basi più razionali quella che è una analisi sociale, analisi politica, sarà un importante progresso. Verrà interpretato come tale da parte di molte persone. Perché ci occupiamo dell'analisi dei segnali deboli? Perché siamo convinti che un eventuale conflitto tra quelle che sono forze propense ad abbracciare il cambiamento, per quanto sia difficile, per quanto possa comportare sofferenze, e le forze che invece vogliono frenare il cambiamento, questo conflitto non veda da una parte gli esseri umani, ma e dall'altra parte le macchine. Perché già oggi queste frontiere si stanno eliminando. Quando ci sarà questo confronto e quando il confronto diverrà anche interno, ci saranno da una parte umani e macchine che vorranno avanzare con delle etichette che avranno sempre meno senso chi è uno, chi è l'altro, e dall'altra parte ci saranno quegli umani che non accettano il mondo come lo vedono allora. È probabile che questo conflitto possa acutizzarsi prima del 2030, 2035 o 40 che sia, quando si immagina avvenga la singolarità vera e propria. Che gli umani tradizionalisti legati al passato possano potenzialmente creare grandi danni. E quello che vediamo dal punto di vista politico oggi è esso stesso un segnale debole di questo conflitto e di questo cambiamento che non può non venire. Ed è per quello che è molto importante che quelli come noi, come quelli che sono presenti stasera, che rappresentano per definizione coloro che abbracciano la tecnologia, ad abbracciano le soluzioni snelle che ci permettono oggi 60 persone di essere insieme, e parlare di concetti così avanzati è molto molto importante che facciamo sentire la nostra voce su internet, nei blog, in Second Life, ai giornali, alla radio, o come ho avuto modo di fare io oggi andando in televisione dicendo queste cose. Altrimenti i danni che subiamo dal conflitto delle generazioni e delle persone che cercano di trattenerci nel passato sarà potenzialmente un danno irrecuperabile e consisterà nella nostra totale irrilevanza sullo scenario tecnologico, sociale, sociologico, culturale del domani.